Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. È sabato, è tempo di Obiettivo Salute Weekend. Buongiorno, bentrovati. Come sta andando questo sabato di spostamenti più liberi? Dove state andando di bello? Mi raccomando, non dimenticatevi i vari dispositivi di sicurezza. Intanto, se volete condividere con noi la vostra avventura, il vostro viaggio, 349-238-6666 o postatelo sui nostri social. Non siete solo voi a spostarvi o a cambiare zona. Mi raccomando, radio mai, ma lo sta facendo anche il virus, e la copertina di oggi è dedicata ancora a lui, al SARS-CoV-2. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere oggi il professor Francesco Lefoche, che è responsabile del Day Hospital di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Il virus continua a circolare, ma sembra anche buttare zizzania tra la comunità scientifica. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. A questo è dedicato la nostra copertina di oggi. Professore. Sì, guardi, allora, il virus sì, in parte continua a circolare, diciamo che è una quantità di virus però assolutamente molto inferiore rispetto a quella che circolava in era pre-lockdown. Il lockdown, devo dire, è stato miracoloso, è stato efficacissimo. Abbiamo subito la restrizione della libertà personale, abbiamo subito in parte un discomfort economico, un discomfort psichico, però in cambio di questo abbiamo avuto una cosa molto importante, cioè la salute pubblica. La salute pubblica che è stata fondamentale, il governo ha preso in mano la salute pubblica per salvare proprio questo dono prezioso e poi ha restituito dopo il 4 maggio una riapertura graduale e ha ridato ad ogni cittadino la responsabilità della salute pubblica. Quindi noi dobbiamo essere responsabili rispetto a questo bene superiore. L'osservazione ci porta a dire che anche le terapie intensive si stanno progressivamente svuotando, ma adesso è cambiato un po' il quadro clinico. Professore, cosa succede? È come se ci fossero due sindromi, una più aggressiva dei primi tempi e adesso questa che sembra un pochino più leggera, mi passi il termine che non è sicuramente scientifico, ma probabilmente rende l'idea. È una sindrome meno grave, data probabilmente alla fine del lockdown e subito dopo il lockdown, la carica virale che circola nella popolazione si è ridotta moltissimo e verosimilmente la quantità di virus che viene contagiata dal paziente è molto ridotta, e questo associato probabilmente a un virus un po' più compliante rispetto a quello precedente e soprattutto anche probabilmente a una condizione di migliore terapia, le persone arrivano diciamo quasi subito al pronto soccorso, eccetera. Noi ne vediamo pochissime, ma quelle che arrivano piuttosto diciamo stanno bene e quindi il trattamento è ancora migliore. Quindi ecco, queste concause insieme fanno sì che questa sindrome sia ridotta nella sua intensità clinica moltissimo. Quindi vediamo delle sindromi che sono paragonabili a una sindrome influenzale che persiste per un tempo piuttosto lungo. Sono delle sindromi che hanno un discomfort biologico notevole, un'astenia profonda, una febbricola, un senso di spossatezza e dell'artromialgie che mettono a dura prova la persona, e queste sindromi durano un po' più a lungo. Sono verosimilmente il risultato di un sistema immunitario che permane attivo dopo essere stato quasi scotomizzato, cioè imbambolato dal virus. Quindi adesso poi chiaramente induce una condizione di infiammazione che è quasi un'infiammazione tra il subacuto e il cronico che permane per un po' di tempo. Quindi, professore, vuol dire che il virus circola, ha rallentato un po' la circolazione, può essere sicuramente merito sicuramente del distanziamento fisico. C'è alcuni ricercatori, alcuni medici sottolineano anche il vantaggio anche della temperatura che è un pochino più elevata, e questo sembra che lui non gradisca. Le forme sono meno aggressive, un pochino più lievi, ma professore, salutiamoci ricordando che adesso possiamo circolare tra le regioni, quindi siamo sicuramente più contenti, il paese è ritornato unito, ma dobbiamo continuare ad essere responsabili, come abbiamo fatto sino ad ora. Dobbiamo avere la responsabilità, perché siamo noi responsabili della salute pubblica, quindi dobbiamo, in questi giorni dobbiamo essere ancora più attenti. Per cui questo è un momento particolare dove si può mettere il punto fine a questa sindrome che è stata drammatica. Quindi per farlo dobbiamo essere responsabili, non dobbiamo sottovalutare, ecco, questa è la cosa più importante. Grazie e professore. Tutto questo diciamo è stato dato soprattutto dal lockdown, che veramente è stato, diciamo, ha avuto, è quello che ha messo in scacco il nostro virus, insomma gli ha dato una bella botta, come si dice. Professore, grazie per essere stato con noi, la ringrazio e le auguro un buon sabato. Sì, viaggiare. Beh, e anche noi adesso viaggiamo, ci spostiamo e andiamo vicino a Milano, a Lodi, per incontrare il dottor Pierdante Piccioni, medico in prima linea contro il coronavirus. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Ah, in prima linea è un'espressione che noi non usiamo a caso, perché racconta bene il suo lavoro in questi mesi, quando con i suoi collaboratori all'ospedale di Lodi, a quello di Sant'Angelo Lodigiano e Codogno, vi siete occupati di organizzare dei percorsi di trasferimento per i malati Covid verso reparti con minore intensità di cura. Dottore, ci racconti? Sì, è stata una bella sfida. Quello che ha detto è perfetto, tenendo presente poi... Io la invito scritto... tutti i sabati, allora, dottore, se lei mi dice queste, mi fa questi complimenti in onda. Venga tutti con i giorni. Grazie. Con piacere, è promesso. No, la premessa è che io poi sono l'ex o il già primario sia del pronto soccorso di Lodi che del pronto soccorso di Codogno, quel Codogno. In realtà adesso mi sono spostato dall'altra parte all'uscita dell'ospedale, con i miei collaboratori abbiamo messo in piedi, parlo del dipartimento sociosanitario dell'azienda sociosanitario territoriale dell'ospedale di Lodi, siamo andati all'uscita, cioè una volta che il paziente, come è stato descritto prima, ha avuto la sindrome acuta, purtroppo è dovuto finire in rianimazione, è stato magari intubato, è stato ventilato con i famosi caschi di cui tanto si è parlato, ecco, noi i pazienti che migliorano, e sono stati per fortuna la stragrande maggioranza. Abbiamo dovuto pensare al dopo, perché come diceva il professore giustamente prima, è stata una sindrome un po' più lunga del solito, quindi ci è impiegato più settimane e anche il recupero è stato maggiore. E pensare al dopo, a quella famosa integrazione ospedale-territorio, si parla spesso in questi giorni, no, di territorio che è mancato, verissimo, è stato il nostro tallone d'Achille. Noi ci abbiamo provato a coprirlo un po' con una cavigliera. Con una cavigliera, mi piace. Dottore Piccioni, fermiamoci qui, ma riprendiamo subito tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Dove state andando questo weekend? Andate dove volete, ma portatemi insieme a voi. Bentornati e benvenuti a Obiettivo Salute Weekend. In linea oggi insieme a noi il dottor Pierdante Piccioni, medico in prima linea contro il coronavirus, con cui, dottor Piccioni, stiamo parlando di una situazione che è cambiata anche nelle zone rosse in cui lei ha lavorato in prima linea. Parliamo naturalmente dell'ospedale di Lodi, di Sant'Angelo Lodigiano e di Codogno. Adesso la situazione è cambiata, professore, ci scatti un'istantanea, una fotografia. Radicalmente cambiata, sembra di lavorare veramente in un altro posto, molti meno pazienti e soprattutto molto meno gravi. Come anticipava prima il professore, è quello che ci ha messo in crisi, cioè l'arrivo, arrivava un'ambulanza ogni 8 minuti nel periodo caldo, ma non di persone che visitavi e rimandavi a casa, ma di persone in cui il respiro inciampava nei denti. Uso una canzone di Guccini, una bellissima metafora, proprio qualche cosa che davvero facevi fatica a gestire. Adesso abbiamo ridotto veramente a numeri veramente veramente bassi, ecco. Con soprattutto la gravità, veramente persone che hanno risultano positive al tampone, pochissimi sintomi, si fa diagnosi, si rimandano a casa. Ritorno in prima linea, perché in prima linea è anche il titolo del suo penultimo libro, che, come si legge nella scheda introduttiva, è una raccolta di lettere dal fronte. Allora le vorrei chiedere, c'è una storia che l'ha colpita particolarmente di quel periodo, di quando era al fronte? Ma storie drammatiche a lieto fine e non a lieto fine, purtroppo ce ne sono tante. Quello che a me ha impressionato, visto che stiamo parlando in radio, dal punto di vista comunicativo, è la vista, l'unico senso che ci era rimasto. Tenete presente, e lo tengano presente gli ascoltatori, che quando noi parliamo di ventilazione, di caschi, questi fanno un rumore assordante. Certi pazienti mi hanno detto che barriscono questi macchinari, quindi l'unico senso che ci è rimasto è la vista. Noi abbiamo fatto della radiovisione, non abbiamo potuto fare la radio, sempre usando una metafora, sì, certo, radiofonica, ma anche attraverso il santo smartphone, come l'ho chiamato io nel libro in prima linea, perché l'unico mezzo di comunicazione erano rimasti gli occhi, era rimasta la vista. Per cui questi occhi dei pazienti, di chi ce l'ha fatta, di chi non ce l'ha fatta, ce li ho impressi, e siccome l'80% della comunicazione ci insegnano è non verbale, questo ha fatto tutto, ha cambiato anche, e tanti medici hanno imparato a guardare negli occhi, parte della barricata, sì, ad usare gli occhi e a comunicare con gli occhi. Questo è il fil rouge di questi racconti. Dottore, anche la sua storia è particolare, per chi non lo sapesse, infatti la sua vicenda ha ispirato la fiction Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Infatti dopo un incidente stradale la sua vita cambia, e al risveglio dal coma lei dovrà fare i conti proprio con un buco nero di 12 anni che ha inghiottito i suoi ricordi, le sue esperienze, le emozioni. E dottore, c'è anche un giallo nel giallo, mi racconta? Allora, giallo nel giallo, assolutamente sì, perché l'ultimo mio libro, sempre scritto con il giornalista Pierangelo Sapegno, che si intitola Colpevole di amnesia, scritto un anno fa, perché sapete benissimo che tutta la parte editoriale, tutte le stampe sono andate a rilento per via, non si trova la carta, per via del Covid. Beh, un anno fa casualissimamente avevamo immaginato il giorno in cui in questo libro, che è un giallo, è un medical thriller, in cui cambia il mondo, sa che data è? Il 21 febbraio del 2020. Pazzesco. È inquietante la coincidenza, sì, perché è veramente un giallo nel giallo. Il 21 febbraio del 2020, per chi non se lo ricorda, è il giorno del paziente 1, in cui a Codogno viene fatta la diagnosi, nell'ospedale di Codogno, del primo paziente, il famoso Mattia, il maratoneta Mattia, e lì l'Italia inizia a capire che il mondo cambia, sì, che l'Italia sarebbe cambiata. Ecco, inevitabilmente. Anche la sua vita, dottor Piccioni, è cambiato, e l'ha messa dall'altra parte, no? Cioè, sì, da medico è diventato un paziente. Dopo quanto lei è successo, lei ha scritto che ha preso un master in pazientologia, come lei stessa l'ha definita, perché un medico che diventa paziente no, cambia un po' la prospettiva. Il passare dall'altra parte della barricata, cioè l'avere iniziato quel giorno dell'incidente il master in pazientologia, che non è ancora finito, mi ha davvero cambiato tutto. E vuol dire che cosa? Essere uguale agli altri. Lei si immagini un primario che diventa paziente. Quindi un potente che torna. Poi un primario, mi scusi, ecco, dottor, sperimenta cosa significa la sala d'attesa, il chiedere e il dire ma le faremo sapere. Sa, tutto e subito erano le regole, no? E invece. Dottor Piccioni, ma lei era un po' un primario, come ben interpretato da Luca Argentero, insomma, un primario in cui uno dice mamma mia, arriva sto primario. Molto duro. Molto duro. Le lascio questo aneddoto. I miei i miei ex collaboratori che mi vedono attualmente parlare con i pazienti, sì. Essere empatico, mi ripetono: dottore, ad avere saputo che veniva fuori così, gliela davamo noi molto prima una botta in testa. E come è riuscito, al di là delle battute, a tornare in corsia? C'è un ingrediente che l'ha aiutata, tra virgolette, lo mettiamo, ingrediente? Non è una parola magica, si chiama equilibrio. Attraverso l'empatia io ho dovuto riequilibrare il mio modo di essere. Farò una metafora musicale. Sì. Quello che conta quando uno canta è non stonare. No? E essere equilibrato anche in quello. Ecco, io mi sono dovuto accordare un'ottava sotto, cioè capire che non potevo più raggiungere certe note, fare le stesse note però un'ottava, due ottave sotto, che vuol dire rendersi conto di non poter più fare quello che facevi prima, ma fare qualcos'altro e magari qualcosa di meglio. Sono certa che la nostra prossima ospite le ha buona un master in psicologia e soprattutto le dà un certificato di buona interpretazione degli esercizi che stiamo facendo insieme al suo centro di ricerca. In linea con noi c'è la professoressa Gwendalina Graffigna, infatti, che è ordinario di psicologia dei consumi e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica, con cui, dottor Piccioni, noi ci stiamo allenando, stiamo prendendo quasi un master, lo metto tra virgolette, per modo di dire, per affrontare in modo adeguato questa nuova quotidianità, che è una quotidianità che è molto sfidante, e vogliamo farlo adeguatamente attrezzati, psicologicamente attrezzati. La professoressa Gwendalina Graffigna ogni settimana con il suo team ci propone degli esercizi che mettiamo sulle pagine di Obiettivo Salute ogni settimana, insomma è un gran lavoro. Professoressa Graffigna, eccoci. Buongiorno, qua. Buongiorno, allora, ben ritrovati. Io mi sono allargata, ho detto che lei al dottor Piccioni ha buona la frequentazione di un master e forse gli dà pure la lode. Le do la lode perché praticamente ha già fatto l'80% del mio lavoro di oggi, ha già spiegato perfettamente quello che volevo proporvi io. Esattamente così, la parola equilibrio è proprio la parola che volevo proporvi oggi, che siamo arrivati al nostro terzultimo appuntamento in questo acronimo della parola engagement, questo ingrediente psicologico e scientifico che ci dà la base per ripartire in salute ed efficaci in questa seconda, terza fase del Covid. E la parola di oggi, quella E, è proprio l'equilibrio, e mi sembra che più che mai oggi sia il sentimento di cui più abbiamo bisogno, perché ci sentiamo un po' in bilico tra ripartire, stare a casa, sarà passato questo virus, non è passato, tornerà. Insomma, mi sembra che ci sia ancora molta confusione, molta incertezza che anche sul piano psicologico ci mette un po' in balia. E allora diventa veramente fondamentale riuscire a trovare una chiave di un proprio bilanciamento, un proprio equilibrio. E noi lo faremo con gli esercizi che troveremo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, naturalmente sempre con il link al vostro centro di ricerca, dottoressa Graffigna. Ma allora vi propongo l'esercizio di questa settimana, che assolutamente ridonda quello che si diceva prima come esempio. Allora, l'ho chiamato il passo della farfalla, perché siamo un po' in questo passaggio a questa nuova fase in cui dobbiamo trovare questo nostro equilibrio tra il dimenticare tutto, pensare che allora siamo liberi tutti, la salute ce la dimentichiamo, ci dimentichiamo la prevenzione, e dall'altra parte il rimanere invece troppo pesantemente ancorati alle paure e ai traumi che ci sono stati. E allora forse io penso che sia importante riuscire a acquisire qualche cosa di importante anche da questo passato turbolento che abbiamo vissuto. E vi chiederei, provate a ripensare con mente un po' più fresca, un po' più lucida, a questo passato di 2 o 3 mesi che ci hanno sconquassato, ci hanno sconvolto su tutti i fronti, ci hanno lasciato molti traumi, molte ferite, forse ci hanno anche insegnato qualcosa di importante, anche solo un segno, soltanto un'esperienza, anche banalmente il fatto che ce l'abbiamo fatta, siamo qua a parlarne, molti di noi ce l'hanno fatta e comunque c'è la possibilità di toccare con mano che si hanno delle risorse. Ecco, Abbiamo questo ricordo, questo apprendimento e simbolicamente racchiudiamolo nella nostra mente e nel nostro cuore e coltiviamolo, perché forse questo può veramente aiutarci a fare questo passaggio della farfalla per essere delle persone migliori, più equilibrati. Dottor Piccioni, io la ringrazio per essere stato con noi, venga a trovarci prestissimo, grazie di cuore alla professoressa Grafigna che ci sta allenando, ci sta rendendo quasi atleti. Trovate tutto sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Se volete tornare indietro e rifare gli esercizi che magari avete trascurato, un po' saltato, Roberta Frisani in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Io vi do appuntamento domani, perché come sempre alle 12 si mangia insieme alla tavola della bufala in tavola. Buona giornata!